Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 26. Paolo fa le sue difese innanzi ad Agrippa, raccontando per ordine la sua conversione a Cristo, e dimostrando come protetto da Dio aveva predicato a giudei, e da gentili, e dicendo Festo, che egli per troppo sapere dava impazzie. Paolo gli risponde, e desidera a tutti, che diventino cristiani. Agrippa dice, che egli poteva essere liberato, se non avesse appellato a Cesare. Agrippa perciò disse a Paolo, ti è permesso di parlare per te stesso. Allora Paolo stesa la mano principiò a far sua difesa. Io mi stimo fortunato, o re Agrippa, perché sono per dir mia ragione quest'oggi alla tua presenza su tutti i capi, onde io sono accusato da giudei, massimamente essendo tu conoscitore di tutte le consuetudini e questioni che sono tra gli ebrei, per la qual cosa ti prego di udirmi pazientemente. E quanto alla vita, ch'io ho menato dalla gioventù tra che della mia nazione in Gerusalemme fino da principio, ella è nota a tutti i giudei, i quali prima d'ora hanno saputo, come io da prima secondo la più sicura setta della nostra religione vissi fariseo. Ora poi per la speranza della promessa fatta da Dio ai padri nostri sto qual reo in giudizio, alla quale le 12 nostre tribù, servendo notte e giorno a Dio, sperano di arrivare. Per cagione di questa speranza sono io accusato da giudei, o re. Come incredibile cosa si giudica da voi, che Dio risusciti i morti. E quanto a me io mi era messo in cuore di dover fare da nemico molte cose contro il nome di Gesù Nazareno, come anche feci in Gerusalemme, e molti dei santi io chiusi nelle prigioni. Avutone il potere dai principi dei sacerdoti, e quando erano uccisi, io diedi il mio voto. E per tutte le sinagoghe spesse volte a forza di castighi li costringeva a bestemmiare, e sempre pia infuriando contro di essi, li perseguitava anche per le città di fuora. Tra le quali cose essendo io andato in Damasco con potestà, e per commissione dei principi dei sacerdoti, di mezzogiorno vidi, o re, nella strada una luce del cielo più splendente del sole lampeggiare intorno a me, e a che, ch'erano meco, ed essendo noi tutti caduti per terra, udii una voce, che a me diceva in ebreo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Dura cosa è per te il ricalcitrare contro il pungolo. Allora io risposi, chi sei tu, o Signore? E quegli disse, io sono Gesù, cui tu perseguiti. Ma levati su, e sta ritto su tuoi piedi, impero che a questo fine ti sono apparito per costituirti ministro, e testimone delle cose, che hai vedute, ed di quelle, per le quali ti apparirò. E ti libererò da questo popolo, e da gentili, tra i quali ora ti mando ad aprire i loro occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce, e dalla podestà di Satana a Dio, affinché ricevano la remissione dei peccati, e l'eredità tra i santi, mediante la fede, che è in me. Per la qual cosa, o re Agrippa, non fui ribelle alla celeste visione, ma primieramente a quelli, che sono in Damasco, e in Gerusalemme, e per tutto il paese della Giudea. Di poi anche alle genti predicava, che si pentissero, e si convenissero a Dio, e facessero degne opere di penitenza. Per questa cagione i giudei avendomi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi. Ma sostenuto dall'aiuto divino, ho perseverato sino a questo giorno, insegnando ai piccoli, e ai grandi, un'altra cosa dicendo fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover succedere, che il Cristo doveva patire, che essendo egli il primo a risorgere da morte, annunziar dei la luce a questo popolo e alle nazioni. Tali cose dicendo egli in sua difesa. Pesto ad alta voce disse, tu sei impazzito, o Paolo, la molta dottrina ti fa dare impazzie. Ma Paolo, non son pazzo, disse, o ottimo Festo, ma proferisco parole di verità, e di saggezza. Impero che sono note queste cose al re, dinanzi a cui liberamente ragiono, dacché niuna di queste cose credo nascosta a lui. Concio sia che niente di questo è stato fatto in un cantone. Credi tu, o re Agrippa, ai profeti? So che tu credi. Ma Agrippa disse a Paolo, quasi quasi mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo, bramo da Dio, che o quasi, o senza quasi non solamente tu, ma anche tutti che mi ascoltano, diventiate oggi quale sono io, eccettuate queste catene. E si alzò il re, e il preside, e Berenice, e quelli che sedevano con essi. E ritiratisi in disparte, discorrevan tra loro, dicendo, quest'uomo non ha fatto cosa, che meriti morte o prigionia. E Agrippa disse a Festo, quest'uomo poteva essere liberato, se non avesse appellato a Cesare. Note, 26,1. Stesa la mano. Come suol farsi da uno, che cominci a parlare. 26,5. Secondo la più sicura setta e ci vale a dire, la più approvata, e la più severa in comparazione di quella dei Sadducei. 26,6. Per la speranza della promessa e ci pone la speranza della vita futura per la stessa vita futura, oggetto della speranza degli antichi padri, i quali in tutto quello che fecero o patirono per onore di Dio, furono sostenuti dall'aspettazione di una vita immortale. 26,7. Alla quale le 12 nostre tribù, e dice, che per conseguire l'effetto di questa stessa promessa tutto il corpo della nazione ebrea avea servito, e serviva di, e notte al Signore coi sacrifici, con le orazioni, e con tutte le cerimonie della legge, e che tutto il culto giudaico era fondato sulla speranza della immortalità, evidentemente stabilita da tutte le divine scrittare e creduta in ogni tempo dal popolo ebreo. Da queste parole dell'Apostolo nasce una difficoltà, perché è paruto ad alcuni, che egli in questo luogo supponga, che gli ebrei continuando nel loro culto senza riconoscere Gesù Cristo, e credere in Lui potessero salvarsi, e giungere alla vita beata. Ma sembra a me chiaro, che non dice, né suppone tal cosa l'Apostolo, ma solamente, che la speranza della risurrezione e della felicità eterna avevano per oggetto gli ebrei nel servigio e nel culto, che a Dio rendevano. Questa speranza avea sostenuto i padri, che a tal vita erano pervenuti, mediante la fede nel venturo Messia. Questa animava i veri loro figliuoli, i quali non potevano più arrivarvi, se non mediante la fede nel Messia già venuto. Ed è da notare, che l'Apostolo parla della dottrina della risurrezione, come professata da tutto il popolo ebreo, niun conto facendo di certi indegni figliuoli di Abramo, i quali empiamente la rigettavano. 26,8. Incredibil cosa si giudica e ci parla contro i Sadducei, a quali dice, è egli adunque incredibile, che un Dio, creduto anche da voi onnipotente, possa risuscitare i morti? 26,11. Li costringeva a bestemmiare. Non solamente a rinunziare a Gesù Cristo, ma anche a maledire il suo oi. Anche per le città di fuori. Per le città fuori della Giudea, come Damasco. 26,14, in ebreo. Questa particolarità non era stata detta nel capo X. E questo linguaggio ebreo è verisimilmente il gerosolimitano, come nel capo 21,40. 26,16. E di quelle per le quali ti apparirò. Da questo luogo intendiamo, che Cristo apparì più volte all'Apostolo, e molte cose gli rivelò. Vedi Act. 18,9. 23,2. Cor 12. 2,26,18. Ad aprire i loro occhi, e a illuminare che giacciono nelle tenebre, e nelle ombre della morte. Impero che i giudei, e gentili erano pieni di ignoranza, e di cecità. I primi leggendo continuamente, e disputando sopra le scritture, non avevano saputo ravvisarmi l'adempimento nella persona di Gesù Cristo, e avevano perseguitato e messo a morte il loro Salvatore. I gentili erano perduti dietro all'idolatria, e non avevano più idea del vero Dio. E gli uni e gli altri erano immersi nei vizi e nelle iniquità. Era proprio di Gesù Cristo il rendere la vista a tanto numero di ciechi, ma egli comunica qui più onore di tale impresa al ministro chiamato ad effettuarla. 26,21. Per questa cagione non come ribelle, né come profanatore del Tempio, ma come apostolo e predicatore di Gesù Cristo mi presero i giudei nel Tempio, e vollero uccidermi. 26,22. Né un'altra cosa dicendo fuori di quello che i profeti, e ci onde non possono gli ebrei accusarmi senza dare una mentita a profeti, e anche allo stesso Mosè, di cui si gloriano di essere discepoli. 26,23. Che il Cristo dovea patire. Verità capitale della nuova Chiesa, ma verità, che era di scandalo per gli ebrei. Che essendo egli il primo a risorgere ci vale a dire il primo, che risuscitasse per non morire giammai. Annunziar Dei la luce. L'Apostolo nei due punti precedenti ha avuto in vista i molti luoghi delle scritture riguardanti il Messia ucciso, e il Messia risuscitato. Qui però sembra che accenni un celebre passo di Isaia, capitolo 42. 6. Ti ho costituito riconciliatore del popolo, luce delle nazioni. 26,24. Tu sei impazzito. Il mistero della croce di Cristo sembra stoltezza e pazzia a questo gentile. 26,26. Niente di questo è stato fatto in un cantone. Agrippa non poteva ignorare tante cose avvenute pubblicamente nella Giudea, riguardanti la persona di Gesù Cristo, prima e dopo la di lui morte. Non poteva ignorare i miracoli senza numero fatti da Gesù Cristo e da suoi discepoli. Non vi restava altro da fare che paragonare questi fatti con le scritture per ravvisare il Messia. 26,29. Quale sono io, eccettuate queste catene? Paolo desidera e domanda a Dio per suoi uditori che tali diventino, quale egli è. Eccetto alle catene con le quali era legato, non perché io creda un male queste catene o se ne vergogni, quando al contrario riponeva in esse la sua gloria e la sua consolazione, ma perché quelli non con lo stesso occhio le riguardavano e avrebbero scritto a grande ingiuria che una simile umiliazione loro augurasse.